l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'altra Europa. Siamo come sempre in diretta dagli studi di Milano di Radio 24 con il nostro appuntamento settimanale dedicato all'Europa, l'attualità, la politica, l'economia europea che viene raccontata e narrata quotidianamente da Radio 24 il sabato. Un appuntamento per cercare anche altri punti di vista, un programma in collaborazione con il network paneuropeo Euronet, euronet.eu il portale, le coordinate per seguirci, per trovarci anche sui social network, facebook.com/l'altraeuropa oppure su Twitter, l'account, il mio personale, @FedericoTaddia, pagine che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare. Ogni settimana un viaggio che ci porta a scoprire facce, storie, persone, notizie della nostra Europa. Oggi partiamo dalla Spagna. Los cerrajeros son testigos involuntarios del drama que supone la ejecución de un desahucio, situaciones que les han puesto los pelos de punta. Por eso dicen basta, no participarán en desahucios de extrema gravedad, donde estén implicadas familias sin recursos económicos. Para nosotros es una cosa violenta el ver a unos críos con una cuna y tenerles que sacar de la vivienda, aunque en este caso lo hace la policía o la Guardia Civil, pero nosotros estamos allí para cambiarle una cerradura que ya no van a volver a poder entrar en la vivienda. 50.000 sono stati 50.000 gli sfratti eseguiti in quest'ultimo anno in Spagna. Ne abbiamo parlato diverse volte di questa bolla immobiliare, di questi mutui che stanno strozzando i cittadini. Arrivano gli aiuti alle banche, però questi aiuti poi non ricadono sulle famiglie e così le banche che hanno chiesto, che hanno erogato questi mutui, che però non possono essere ripagati dalle famiglie, sfrattano le famiglie. Alleati fino alla settimana scorsa delle banche, loro malgrado erano i fabbri chiamati a cambiare le serrature, i fabbri chiamati ad aprire quelle porte per buttare fuori anziani, per buttare fuori mamme, per buttare fuori intere famiglie anche della classe media. I fabbri hanno detto no, noi non ci stiamo più, nessuno ci obbliga, vediamo quotidianamente storie tragiche, andiamo ad aprire quelle porte e ci incontriamo davanti persone disperate, persone che non sanno dove andare, e quindi hanno deciso di fare una sorta di obiezione di coscienza e si stanno rifiutando di andare a cambiare le serrature. L'iniziativa è partita da Pamplona ma si è velocemente allargata in tutta la Spagna e con noi c'è una portavoce dell'Unione de Cerrajeros de Seguridad, dell'Unione dei Fabbri. Diamo il benvenuto a Laura L'Aliena. Ciao Laura, benvenuta all'Altra Europa. Buongiorno, grazie mille. Buongiorno a te. Una protesta importante, una protesta che ha fatto parlare, ha fatto il giro del mondo. La vera motivazione è questa di cui abbiamo parlato prima. Siete stanchi di essere alleati di questa tragedia? Veramente lo hai ispirato benissimo. Questo è noi come federazione abbiamo preso questa decisione a novembre, quando ci sono successi in Spagna, non so se ricordati, qualche persona morta quando la polizia è andata alla sua casa per dire devi andare via, ok? Sì. C'era una donna nel nord della Spagna che è morta perché mi spiace il mio italiano. No, tranquilla, non preoccuparti. Questa donna e anche un uomo nel sud della Spagna hanno ucciso per la sua finestra, ok? Sì, si sono suicidati. Sono suicidati, questa era la parola. E noi siamo un collettivo, siamo Fabri, e dobbiamo, è parte del nostro lavoro partecipare in questi sfratti, ma i nostri professionali sono veramente colpiti per queste situazioni e hanno pensato che loro non hanno nessuna obbligazione di fare questo tipo di lavoro che è veramente così drammatico e così tragico. Certo. Perché ci sono sfratti da tanto tempo e anche adesso ci sono sfratti che sono giusti, perché c'è gente che non paga il suo affitto o che non so, sono tante situazioni diverse, ma veramente la crisi economica e la situazione delle banche hanno messo a qualche gente in situazioni veramente drammatiche. Per esempio la banca non ha cercato una soluzione intermedia per provare di lasciare la sua casa. Così noi abbiamo deciso in questo attimo, quando la società era così colpita per queste situazioni, che non volevamo partecipare in più. Noi siamo una federazione nazionale, ci sono 250 imprese, sì, nella nostra federazione in tutta la Spagna, e ci sono molto più professionali liberi, e non lo facciamo più. Ti posso assicurare che la nostra gente, è vero che quando lascia di fare un lavoro stai perdendo dinero alla, certo, fine. Sì, perché per voi comunque è lavoro. Sì, ma loro sono molto più tranquilli e molto soddisfatti di questa decisione. E anche siamo molto soddisfatti perché dopo ci sono tanti in altre parti di Spagna che non formano parte della nostra federazione, sì, che hanno preso la stessa decisione. Certo, Laura, e qual è stata, scusa, la reazione dell'opinione pubblica? La gente cosa vi ha detto? In genere lo hanno preso benissimo, sì, perché la gente, la società non è satisfatta con questo che succede adesso, perché tutti sappiamo che c'è gente che può pagare e non lo fa e tutte queste cose, ma queste situazioni di cui noi stiamo parlando, che sono situazioni e sfratti drammatici, sono in tante volte sono venuti per questa situazione economica. Certo. E la banca non sta facendo le cose come si spera, perché quando si fa in Spagna un sfratto, la famiglia deve andare via dalla sua casa, non importa se ha un altro posto dove andare o no, sì? Mm-hmm. E anche deve ancora pagare la sua ipoteca. Ok, quindi comunque deve abbandonare la casa e nello stesso tempo deve pagare, continuare a pagare il mutuo e gli interessi. Sì, quindi comunque il problema non si risolve. Anzi se ne crea un altro, perché non c'è più la casa. Mi sembra... è un problema grave e ci sono gente, non è così gente che non ha niente, che è gente della classe media che hanno qualche problema adesso per questa situazione, ma forse in 2 anni la cosa è meglio e può ancora pagare. Non so, sicuramente adesso è vero che la banca sta cercando qualche soluzione, ma per tanto tempo, per tanti mesi, non hanno fatto niente e si hanno incrementato in molto questi sfratti. Quindi noi abbiamo detto, ok, fare quello che volete, ma non con noi. Noi non ci stiamo, appunto, a costo anche di perdere del lavoro, però mi sembra che sia una provocazione, concedimi questo termine, anche se non è quello corretto, perché la vostra è proprio un'azione pensata, ragionata, e speriamo possa servire per cambiare le cose. Grazie davvero, Laura, a te e a tutti i tuoi collaboratori. Grazie a voi per il vostro interesse, davvero. Europostit. Maribor, capitale dei giovani europei 2013. Ogni anno il Forum Europeo dei Giovani assegna ad una città il titolo di capitale dei giovani per incoraggiare progetti innovativi legati alla partecipazione attiva dei giovani nella società e per promuovere le politiche giovanili sia a livello locale che europeo. Il 2013 è l'anno di Maribor in Slovenia, che prende il posto di Braga in Portogallo. Durante il 2013 Maribor offrirà un intenso programma con eventi e attività che hanno come obiettivo l'incremento della partecipazione e delle opportunità per i giovani, che possano così contribuire concretamente alla crescita delle loro comunità. Per maggiori informazioni su eventi e iniziative visitate il sito mb2013.si. L'altra Europa. Europe Direct, bonjour. Na tej stronie po prostu masz tutaj wezwało na samą bazę woda. Europa Directa, buongiorno. Vado a vivere in un altro paese europeo, come posso ottenere il permesso di soggiorno? Oppure, quali sono le nuove tariffe di roaming? Oppure, hanno cancellato il mio volo? Quali sono i miei diritti ancora? Quali sovvenzioni offre l'Unione Europea alla mia impresa? Sono domande legate alla nostra quotidianità, domande legate alla quotidianità che ci lega, ci avvolge all'Europa. E queste risposte si possono avere da ieri, da oggi, ma da domani ancora di più, dagli centri Europe Direct. Sono dei centri importanti, centri di informazione, sono punti vitali dell'Europa che scende nel territorio. Beh, 48 nuovi centri di informazione Europe Direct sono stati selezionati in Europa per questa nuova generazione, una sorta di rinnovamento di questi sportelli operativi proprio in occasione dell'apertura dell'anno europeo dei cittadini. Per capire che cos'è Europe Direct e il perché di questa nuova iniziativa abbiamo con noi Lucio Battistotti, direttore della rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Buongiorno Lucio, ben ritrovato. Buongiorno, buongiorno Federico e buongiorno agli ascoltatori. Allora, è l'Europa che si pone, che si apre ai cittadini, credo che sia questa la metafora più giusta di questi centri, degli Europe Direct. Sì, credo che tu abbia introdotto molto bene in effetti il senso di questo, di quello che è successo questa settimana poi, perché questa settimana in effetti è stata comunicata ufficialmente il lancio della nuova generazione, chiamiamolo così, degli Europe Direct. Sono 500 in tutta Europa e ben 48 in Italia. Il nostro paese poi è quello che ha dimostrato un maggior interesse per questi centri, perché abbiamo ricevuto ben 170 candidature. Ecco, io, e come dicevi tu esattamente, questo è proprio il segno che l'Europa deve essere il più vicino possibile al cittadino, perché da una parte noi è vero che abbiamo assistito a una certa perdita di fiducia in generale verso le istituzioni, sì, ed anche naturalmente verso l'Unione, e dall'altra però una richiesta di maggiore informazioni. Allora diciamo che metaforicamente l'Europa dovrebbe essere dietro l'angolo, cioè ogni cittadino dovrebbe poter avere accesso nel minor tempo possibile alle informazioni utili a lui, alla sua famiglia, alla sua impresa, eccetera. Insomma. Perché la cosa importante che ci tengo a sottolineare è che sono i cittadini proprio che si possono rivolgere a questi sportelli, nel senso non sono centri per addetti ai lavori, giusto? Esattamente, esattamente. Infatti poi c'è anche una molteplicità di istituzioni che li ospita. La maggior parte di queste istituzioni sono i comuni proprio, quindi questo dimostra ancora di più che è fatto per i cittadini, quindi non una rete specifica per addetti ai lavori, ma chiunque, qualunque cittadino ci può andare, riceverà se possibile l'informazione in diretta o altrimenti gli sarà fornito, gli saranno indicati gli strumenti per accedere alle informazioni. Ricordiamoci poi che assieme a questo c'è anche sempre il sito della rappresentanza in Italia della Commissione Europea, in cui che ha già moltissimi visitatori e che speriamo ne abbia ancora di più in futuro. È un indirizzo facilissimo, è www.ec.europa.eu/Italia. Perfetto. Ci si arriva comunque anche da qualsiasi motore di ricerca ed è costantemente aggiornato e risponde ai cittadini. Lucio, ma un po' dalle vostre analisi o dalla vostra esperienza, insomma, i cittadini si rivolgono, per esempio, agli Europe Direct alla ricerca di quali informazioni? Nel senso, è il lavoro, è il viaggiare, è capire come accedere ai fondi europei? Ci sono delle istanze primarie? Sì, sì, beh, noi abbiamo anche un pochino il polso della situazione, anche perché oltre a quanto ci raccontano i centri Europe Direct, perché anche questo è da sottolineare, che quindi servono ai cittadini per avere delle informazioni, ma anche a noi per capire che cosa vogliono i cittadini dall'Europa, e questo è importantissimo perché tutto questo flusso di informazioni poi risale anche verso Bruxelles. Ebbene, in questi ultimi anni di crisi, diciamo purtroppo una crisi che si sta rivelando lunga, troppo lunga, abbiamo visto sempre di più che le richieste riguardano soprattutto richieste di finanziamenti. Chi ha una piccola impresa o anche proprio piccole imprese individuali, un negozio eccetera, dice: ma ci sono delle possibilità per me di accedere a dei finanziamenti di modernizzazione eccetera. Poi un'altra richiesta sicuramente è quella del lavoro, cioè come posso riuscire a trovare un lavoro tout court o un lavoro migliore in Europa. E quindi anche lì c'è uno strumento che si sta migliorando, ancora non è completo, ma che dovrebbe essere la famosa Borsa del Lavoro in Europa, cioè EURES. Sì. È un portale che è in fase di rifacimento e che dovrebbe permettere l'incontro tra la domanda e l'offerta di tutta Europa, cioè far sì che finalmente il 2013 sia l'anno in cui per i cittadini europei il loro mercato del lavoro non sia più la regione, la provincia, né l'Italia, ma l'Europa intera. Ecco. Queste sono fondamentalmente le domande che abbiamo di più. Ci sono sempre quelle anche sul viaggiare, però forse oggi c'è più urgenza verso il lavoro e i finanziamenti. Insomma. Certo. Comunque è insomma uno spazio importante per conoscere i propri diritti, anche i propri doveri da cittadini europei. E www.europa.eu/europedirect, questo è l'indirizzo, il link diretto per tutte le informazioni sui centri. Grazie davvero Lucio, e buon lavoro a te e a tutto il tuo staff. Grazie, buon lavoro anche a te Federico. Di nuovo, arrivederci a tutti. Europost-it. Your Europe. A Bruxelles si parla di cittadinanza attiva. La crisi economica e politica in cui versano alcuni stati dell'Unione Europea fa sì che la fiducia nelle istituzioni diminuisca giorno dopo giorno. L'Unione Europea inaugura quindi il 2013, anno di cittadini europei, con Your Europe, una grande conferenza aperta a tutti coloro che siano interessati ad approfondire in modo concreto le tematiche della cittadinanza attiva e della rappresentatività degli organi economici e politici europei. L'evento vuole inoltre essere un catalizzatore che rafforzi l'attivismo dei cittadini, permettendo loro di entrare in rete e di scambiare idee e nuove pratiche. La conferenza si terrà a Bruxelles il 23 e 24 gennaio. Per maggiori informazioni, visitate la sezione eventi sul sito eesc.europa.eu nella versione inglese. Tere! Küpses demokraatlikus ühiskonnas sünnivad otsused ühise arutelu tulemusel. Kellelgi, ühelgi isikul, parteil või muul ühingul pole ainuõigust dikteerida, kuidas asjad Eestis peaksid käima. Jah, seadusi võtab Eestis vastu Riigikogu. Ometi peab ettepanekute tegemise ja kaasarääkimise õigus olema igal aktiivsel kodanikul. Benvenuti nel Consiglio dei cittadini. Quello che state ascoltando è il presidente Ilves, il presidente Estone, che sta invitando i cittadini a partecipare a una nuova iniziativa che coinvolgerà i prossimi 3 mesi, quando i cittadini estoni avranno la possibilità di partecipare all'elaborazione di una nuova regolamentazione della vita politica estone. In Estonia, come succede in Italia, come succede in tanti altri paesi europei, c'è un forte distacco tra la classe politica e i cittadini, conseguenza di anni di inchieste, di scandali, di una classe politica anche corrotta. E quindi appunto per riavvicinare il popolo, i cittadini a una sorta di nuova sensibilità politica è stato lanciato per i prossimi 3 mesi una sorta di partecipazione collettiva, un'operazione trasparenza per rispondere agli scandali politici finanziari che hanno sconvolto il paese. Per capire come potranno i cittadini intervenire in questo processo legislativo e soprattutto per capire il perché di questa iniziativa, quali sono le basi solide, le basi reali, abbiamo invitato Ulle Todde, addetta stampa dell'ambasciata estone a Roma. Ciao Ulle, ben ritrovata. Buongiorno, ciao a tutti. Credo aver pronunciato male il tuo cognome, come da tradizione. Qual è la pronuncia corretta, Ulle? Sei stato bravissimo, devo dire. Ok, perfetto, okay, mi è andata bene. Ciao e ben ritrovata. Ulle, cosa sta accadendo in Estonia? Ci ha colpito molto questa iniziativa promossa dal presidente e speriamo anche iniziativa reale, non solo di facciata. Cosa sta accadendo? Raccontaci. Come hai detto, da questo gennaio tutti i cittadini estoni possono proporre le idee per nuove leggi in Estonia. Questa sicuramente è una notizia, una proposta che si parla tantissimo in Estonia questi giorni, e praticamente in 3 mesi ci è dato per i cittadini una possibilità di partecipare, così dire, in processo legislativo, e quindi i cittadini possono proporre le idee a quelli processi politici o legati al sistema elettorale o funzionamento, lavoro e finanziamento dei partiti politici. E tutto è nato con un scandalo politico che praticamente è successo l'anno scorso, uno dei nostri ministri, il ministro della giustizia, che si chiama Silver Mixer, ha dichiarato che ha avuto soldi in contanti da qualcuno che non sapeva esattamente da quale parte venivano questi soldi. Sì. E praticamente li metteva su conto del partito. Ok, c'è stata una forte reazione della popolazione, vero? Una forte indignazione, diciamo. Certamente, in questa piccola società nostra, dove sono solo 1.300.000 in abitanti più o meno, è nato un crisi e una, diciamo, una clima di sfiducia ai confronti dei politici e istituzioni, e per quello il presidente in ottobre ha invitato insieme un round table, un tavolo rotondo per tutti e tanti politici, opinion leader e alcuni cittadini, per decidere come andare avanti. E certamente per una piccola democrazia, un piccolo Stato con nuova democrazia, è stato un periodo abbastanza difficile, e così è nata questa idea di coinvolgere i cittadini. Sicuramente ci sono anche tanti che sono un po' scettici sui risultati di questo tentativo, però sicuramente ci sono altri che sperano che sarà veramente un'opportunità di partecipare e provare almeno come funziona la democrazia dal basso. Assolutamente, c'è un sito che è un po' il riferimento, è l'imbuto dove convogliare tutte le proposte. Esattamente, ci è creato questo sito dove tutti i cittadini possono proporre le iniziative o idee come fare leggi nel nostro paese. E questo periodo del proposte dura fine gennaio, e poi un gruppo di esperti analizza queste idee, e a marzo si terrà un altro discussione, più giorni di discussioni, e poi di queste discussioni vengono già presi fuori idee concrete che poi vengono presentate al Parlamento e governo. Quindi tutti aspettano con curiosità veramente cosa viene fuori da questa iniziativa online dal Democrazia del Passo. Perfetto, io sto pubblicando il sito sui nostri social network, però lo lascio dire a te perché non credo di essere in grado. Lascio a te la parola. Praticamente il sito si chiama rahvakoku.ee, vuol dire che assemblea dei cittadini, punto, e lì allora tutti possono proporre le sue idee. Okay. E ci sono stati fatti finora, dal 7 gennaio quando è stato aperto questo sito, più o meno 300 proposte già. Ok, che appunto, visti i numeri della popolazione, sono sicuramente un numero significativo. Ulla, prima di salutarci, una riflessione, non c'entra niente con quello di cui abbiamo parlato, però mi sembra un'iniziativa importante. Tallinn è la prima capitale dell'Unione Europea ad aver introdotto un sistema di trasporti pubblici gratis per appunto combattere l'inquinamento. Sta funzionando questa iniziativa? È davvero sostenibile? È uno spot, nel senso è legata a un breve periodo, o c'è proprio in atto anche qui un cambiamento di mentalità, un cambiamento di approccio a quella che è la mobilità nella capitale estone? E anche questa è una grandissima notizia di quest'anno, veramente. Alcuni sono un po' scettici, perché ancora non è chiaro da dove vengono questi soldi delle casse comunali, che adesso non ci sono più, perché tutti i cittadini o residenti dei Tallinn possono viaggiare gratis. Però certamente per cittadini, chi sono residenti a Tallinn, questa è una bellissima notizia. Solo che altri che viaggiano a Tallinn e che non sono residenti devono adesso pagare di più per biglietto di Tallinn. Quindi per alcuni una buona notizia può essere anche una notizia un po' più brutta. Però aspettiamo come vanno le cose. Sicuramente è una iniziativa bellissima anche di provare di fare la città più, l'area della città di Tallinn più pulita, e speriamo che funzionerà. Perfetto, una nazione in movimento, in fermento, quindi la seguiremo sicuramente nei prossimi mesi qui dall'altra Europa. Grazie davvero Ulla, come sempre, buon lavoro. Grazie, buongiorno. Ciao, buon sabato. Europost-it. Musica di ghiaccio nel ghiaccio. In Norvegia torna l'Ice Music Festival. Amanti del freddo e dell'arte, questo evento imperdibile è proprio per voi. Si chiama Ice Music Festival e si terrà a Geilo, in Norvegia, dal 24 al 27 di gennaio. Si tratta di un evento unico nel suo genere. Infatti, concerti, spettacoli teatrali e seminari avranno un unico grande tredunion, il ghiaccio. Gli strumenti, le scenografie e i materiali usati da scultori e architetti presenti al festival saranno fatti da nient'altro che acqua congelata. Copritevi bene! Tutti gli spettacoli si terranno all'aperto al Chiar di Luna, che quest'anno sarà piena per l'occasione. Per maggiori informazioni visitate il sito icefestival.no. Walking all the day near tall towers where falcons build their nests. Silver-winged they fly, they know the call of freedom in their breasts. Saw black head against the sky, where twisted rocks they run. E queste note ci accompagnano in Irlanda, l'Irlanda che era al verde, mentre ora è un'Irlanda che è tornata verde. Questa è stata un po' la notizia di questi giorni, l'Irlanda protagonista perché è alla guida del semestre europeo, l'Irlanda che era sull'orlo della bancarotta, invece in fase di forte ripresa, e merito di questa forte ripresa va a una tassa importante che colpisce l'inquinamento, una tassa che è stata accolta con un leggero malumore all'inizio e invece è stata determinante anche per una sorta di cambio di mentalità. Per parlare di questa Irlanda al verde, di questa Irlanda, dell'orgogliosa Irlanda che ce la sta facendo, abbiamo con noi Patrick Henew, corrispondente da Roma per l'Irish Times. Buongiorno Patrick, ben ritrovato. Buongiorno Federico, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Come stai? Tutto bene a Roma? Tutto bene a Roma, bel sole oggi. Bel sole, ok. Allora, mi ricordo l'altra volta che ci eravamo parlati, che tu sei un appassionato di calcio, no? Anche? Sì. Stai raccontando il campionato italiano? Beh sì, ogni tanto sì. E cosa dici? Quest'anno che approccio hai dato al campionato italiano? Come lo stai narrando? Ti piace, non ti piace? Un anno di... No, sai, l'argomento, uno degli argomenti che ho affrontato è quello del fatto che tanti giovani calciatori, citiamo un esempio ovvio, El Charroway al sì. Milan, uh-huh. Loro sono esplosi, sono emersi perché il calcio italiano ha dovuto vendere i gioielli migliori, tipo al Milan, Ibrahimovic, Thiago Silva. Avendo venduto questi c'è più spazio ovviamente per i giovani italiani e loro stanno emergendo, si vede anche con la nazionale di Prandelli che lui ci mette tanti giovani che giocano anche bene. Quindi insomma la crisi ha fatto bene al calcio italiano? Sì, no, ma anche lo stesso Prandelli, conversazione che ho avuto con lui l'altro giorno, lo ammette chiaramente. Bene, insomma mi sembra... si parla di verde, no? Anche qui siamo linea verde, sì, no? Sì, un po' il filo conduttore di questa chiacchierata. Sì. Allora Patrick, come sta l'Irlanda? È vero quello che si legge? Nel senso c'è... Non voglio essere il cattivo qua, ma mi sembra che è un po' esagerato questo discorso della ripresa dell'economia irlandese grazie al green economy. Dipende come le vedi le cose, il bottiglio può essere mezzo vuoto, mezzo pieno, ma la realtà dell'economia irlandese adesso è che ci abbiamo ancora disoccupazione di quasi 15%, ci abbiamo un paese dove 40.000 irlandesi hanno preso la strada dell'emigrazione l'anno scorso andando in Canada, America, Australia, eccetera. In Irlanda dove tante imprese hanno dovuto chiudere, ma al stesso tempo ci sono i segni di una ripresa, nel senso che l'Irlanda si è guadagnato molto credibilità, no? Perché sì. Ha rispettato i vari ripagamenti secondo il famoso piano di salvataggio, gli 80-85 miliardi di, certo. Per salvare le banche. Poi l'esportazione continua a crescere sempre, cresce a un ritmo abbastanza interessante, ma il discorso dell'economia irlandese che è sempre stata una crisi bancaria, più bancaria e più di una speculazione immobiliare tipo quella del subprime in America, è stata più quella che non una crisi industriale, perciò sai I grandi americani dell'informatica, Intel, Microsoft, Facebook, Google, Yahoo, LinkedIn, tutti quelli hanno le sedi europee ancora a Dublino, tutti quelli stanno facendo soldi e quello ovviamente fa soldi all'economia irlandese. Perciò per il futuro la previsione irlandese è molto ottimista, ma per adesso si stanno ancora riprendendo. Okay. Ma questo si collega anche col discorso del green economy, perché quello che si dice del green economy è legato a un piano che è orientato sull'anno 2020. Sì, infatti è tutto insomma il famoso 2020 sì. Come obiettivo europeo, sì. Ma c'è una nuova, al di là del lato economico, c'è davvero una nuova cultura legata all'ecologia, legata al green? Sì. No, questo sì, okay. Questo non è sbagliato dirlo, perché ma per darti un paio di piccoli esempi, ma significativi, l'Irlanda era il primo paese a abolire le buste di plastica. È vero, certo. E l'Irlanda era uno dei primi paesi a far dire che non puoi fumare dentro nessun edificio. Sì, quelle scelte che insomma cambiano anche le abitudini, sì. No? Cambiano la quotidianità, sì. Quindi vuol dire che si è pronti e comunque sensibili. Poi, sai, hanno già iniziato tutto un programma di come diciamo, la ristruzione delle case nel senso che di controllare le perdite del calore, sì. Sai, l'isolazione delle case. E questo è tutto un sistema statale che perché costa all'utente ovviamente e l'utente lo ripaga. Diciamo mensilmente per i prossimi anni. Patrick, questa funzione anche. Un'ultima domanda: c'è attenzione da parte della popolazione per questo semestre europeo a guida irlandese o c'è abbastanza indifferenza? Ma sai, l'Irlanda adesso si trova coinvolta in un enorme e caldissimo dibattito pubblico sull'aborto. Sì. Perché il governo di Kenny, il governo di Fine Gael, sta per introdurre una legge sul richiesta del Consiglio d'Europa per difendere i diritti della mamma. E questa cosa sta passando in secondo piano la presidenza. Tutto il resto. Ho capito. Dell'Unione Europea. Ho capito. Va bene, seguiremo anche questa cosa. Sicuramente l'altra Europa nelle prossime settimane. Grazie davvero, Patrick, come sempre, per la tua analisi. Buon lavoro. Buon lavoro a voi. Vai allo stadio oggi o domani? No. Ok, no, perfetto. Mi prendevo riposo questo weekend. Benissimo, ottimo. ciao. Europost-it. Campus Innovact. L'Europa premia le start-up. La Camera di Commercio e Industria di Reims ed Epernay ha indetto il premio Campus Innovact, supportato dalla Commissione Europea. L'obiettivo è quello di permettere a giovani studenti con un'idea creativa di realizzare un progetto imprenditoriale a livello europeo in squadra o individualmente. Il concorso è aperto agli studenti delle università e degli istituti superiori di tutta Europa. La giuria competente sarà composta da imprenditori, giornalisti, scienziati e insegnanti europei e premierà i candidati che hanno dimostrato più fantasia e innovazione. I tre selezionati riceveranno premi dai 1.500 ai 5.000 euro. C'è tempo fino al 28 gennaio 2013. Per maggiori informazioni visitate il sito innovact.com. Si tu ne sais pas pour qui voter, tu dois juger le moins mauvais. Personne ne pourra t'assurer qui fera ce qu'il a dit, mais tu lui auras prouvé l'engagement de ton esprit. Beh, anche questa canzone dell'improbabile playlist dell'altra Europa che la nostra redazione ha scovato in rete, una marcetta, una canzone in francese per invitare al voto, perché andiamo a parlare di elezioni, non di elezioni in Francia, ma delle elezioni italiane, in particolare però di un'iniziativa che arriva dalla Francia, in particolare ancora da Libera Francia, quindi la sezione francese dell'associazione Nomi e Numeri contro le Mafie, Libera, l'associazione fondata e voluta da Don Ciotti. Ecco, Libera Francia sta lanciando questa campagna per la legalità del voto all'estero nelle elezioni politiche italiane del 2013, delle prossime elezioni politiche, per capire il perché di questa campagna e di cosa si tratta, come si può contribuire attivamente. Abbiamo con noi da Libera Francia Maria Chiara Prodi. Ciao Maria Chiara, ben ritrovata all'Altra Europa. Ciao Federico, ciao a tutti. Ciao. Si parla tanto di elezioni, lo stiamo facendo qui in Italia, è sicuramente l'argomento politico del giorno, quindi mi piaceva proporre un'altra faccia delle elezioni politiche, che è il voto all'estero e questa vostra campagna per la legalità. Di cosa si tratta, Maria Chiara, e perché l'esigenza di una campagna di questo genere? Beh, innanzitutto non si parla quasi mai delle elezioni all'estero, salvo quando ci sono dei problemi o quando i senatori pesano più di quelli italiani, quasi, quelli eletti all'estero. In realtà ci sono 4 milioni di persone iscritte all'AIRE, quindi al registro degli italiani all'estero, che in tutto il mondo votano dal 2006 per la circoscrizione all'estero. E quindi ci siamo messi con i volontari di Libera Francia a lavorare proprio su cosa era successo nel 2008, perché appunto sono sicura che i radioascoltatori hanno la memoria lunga, ma lo ricordo, c'erano stati diversi accuse di brogli, alcuni onorevoli coinvolti in processi e soprattutto uno, Nicola Di Girolamo, che poi è stato accusato e arrestato per associazione delinquere finalizzata al riciclaggio e violazione della legge elettorale con l'aggravante mafiosa. Ecco, già questo mi sembra che sia sufficiente per capire il perché di una campagna di questo tipo. Maria Chiara, senza entrare in tecnicismi estremi, perché poi quando si parla di sistemi elettorali è inevitabile che cadere nei vari regolamenti, però tu ci hai detto che ci sono 4 milioni di italiani che voteranno e che sono quelli iscritti a questo albo degli italiani all'estero, voteranno per le elezioni politiche in Italia per eleggere quanti senatori e quanti deputati? Beh, insomma, stiamo parlando di una dozzina, diciamo che ci sono 6 deputati per la circoscrizione Europa, che è quella poi di cui ci siamo anche occupati nelle nostre ricerche. Faccio un attimo di conti, diciamo, 4 milioni sono gli iscritti all'AIRE, gli aventi diritto al voto sono 3 milioni, diciamo che quelli che esercitano questo voto sono meno della metà, quindi uno dei grandi temi che avevamo era proprio quello di capire come funzionava questo sistema, perché per ora, per esempio, il voto è per corrispondenza, quindi una busta con dentro un certificato e il bollettino per il voto viene spedita al 100% degli aventi diritto al voto, anche se poi ritornate e votate le schede sono meno della metà, quindi già questa era una cosa che ci aveva interpellato. Ecco, e quali sono i punti della vostra campagna? Nel senso, cosa vorreste vedere cambiato? Guarda, noi la campagna l'avevamo cominciata in tempi, non dico non sospetti, ma comunque in autunno. Avevamo vari punti che trattavano i vari livelli anche del sistema del voto all'estero. Quindi ci concentravamo sull'inversione dell'opzione, quindi questa questione di diciamo far ricevere il bollettino soltanto alle persone che lo richiedono esplicitamente, quindi cercando già di semplificare il sistema. E poi chiedevamo tante altre cose, alcune delle quali appunto sono state un po' sconvolte dalla caduta del governo e dalle elezioni anticipate. Quindi diciamo che oggi ci concentriamo in particolare su alcuni punti come la selezione dei candidati, stiamo scrivendo un documento simile a quello che Avviso Pubblico ha scritto a Carta di Pisa per diciamo incentivare la trasparenza nell'operato degli eletti. E un'altra cosa importante, avendo letto diciamo i documenti verbali della Camera dei Deputati, della Giunta delle Elezioni, ci siamo resi conto che c'è un gran bisogno di persone che, quando i seggi vengono allestiti con lo spoglio delle schede, ricordo che le schede di tutto il mondo arrivano a Roma e vengono scrutinate a Roma, ecco, c'è bisogno di gente che sia formata per scrutinare queste schede, quindi come Libera stiamo cercando di raccogliere un gran numero di volontari da poter proporre sia ai candidati come rappresentanti di lista, sia alle autorità competenti come scrutatori e presidenti di seggio, in modo che questi seggi che vengono allestiti a Roma, che saranno circa 1500 per darti l'idea delle grandezze, insomma, possono contare su un personale che si impegna alla legalità e si impegna a seguire una formazione per fare questo lavoro al meglio. Ecco, Maria Chiara, non sono mai state fatte proposte alternative al voto per corrispondenza? Non è comunque un metodo antico, non è un metodo che può essere facilmente soggetto a brogli? Guarda, il metodo soggetto a brogli anche perché la stampa delle schede elettorali si fa in loco, per cui ogni stato, cioè ogni consolato estero si organizza, perché ogni consolato estero sceglie diciamo quali canali di distribuzione usa, quindi può essere la posta normale o dei corrieri. È stato scoperto che in Sud America, per esempio, dei corrieri non avevano fatto la distribuzione delle schede, quindi insomma succede un po' di tutto, ma questi sono problemi proprio, come dici tu, legati al sistema. Delle proposte alternative sono state fatte, sicuramente noi come volontari di Francia ci siamo posti molto il tema anche della cittadinanza europea, nel senso che se il 53% degli italiani iscritti all'AIRE vive in Europa, beh, magari potrebbe anche votare per il paese in cui risiede, quindi potrebbe essere un passo in avanti. Quanto al sistema, ci sono delle alternative, sono studiate, nessuna di queste è perfetta, per cui bisogna tenerne conto, e soprattutto ci vuole un discorso un po' più di ampio raggio. Noi ci siamo concentrati sull'urgenza, nel senso che avendo letto quello che abbiamo letto su quello che è successo nel 2008, non vogliamo essere complici con il nostro voto nel 2013 di qualcosa che non ci piace. www.libera.it come sempre per tutte le informazioni generali, o ci sono anche indirizzi più specifici per relativi alla campagna? Assolutamente, volevo ricordare quello di Libera Francia, sì, che è libera.paris, scritto alla francese, quindi Paris, @gmail.com. Ok, per tutte le informazioni. E Maria Chiara, un'ultima riflessione, questa al di là della campagna: tu vivi all'estero, fai parte di diverse reti, sei animatrice anche di diverse reti di italiani all'estero. Ecco, ma la classe politica italiana mostra sensibilità verso questi italiani all'estero, nel senso viene lanciata una richiesta di voto, viene motivato il voto all'estero, o anche qui ci sarebbe tanto da fare? Ma c'è tanto da fare. La priorità, secondo me, è creare un ponte tra la vecchia immigrazione e la nuova, nel senso che parlare di italiani all'estero in generale non ha più molto senso, nel senso che tutti quelli che vengono chiamati cervelli in fuga partono senza neanche iscriversi all'AIRE, mm-hmm, e questo crea diversi problemi, tra cui il fatto che questi cittadini fantasmi all'estero non figurano nelle statistiche italiane, quindi figurano come bamboccioni sostanzialmente a casa coi genitori, e questo va cambiato, e secondo me questo cambiamento porterà per forza a una lettura diversa degli italiani all'estero. Mm-hmm. Ce lo speriamo, ce lo auguriamo e ci auspichiamo anche che questa campagna possa avere eco e risalto. Grazie davvero Maria Chiara, complimenti a te e a tutti i tuoi collaboratori. Insomma, grazie, di fare un ultimo appunto? Certo, siamo qua. Volevo solo chiedere a chi sarà il presidente di seggio nei seggi italiani di fare attenzione alle matite copiative. A me è successo che le mie si cancellassero con la gomma l'ultima volta che ho fatto il presidente di seggio, quindi controllate, mi raccomando. Piccoli dettagli però, assolutamente determinanti, fondamentali. Grazie Maria Chiara, ciao e buon sabato. Un grazie a tutta la squadra anche dell'Altra Europa, Miriam Lucchetti e Margherita Ina che con me hanno scritto la puntata, Giorgio De Luca oggi in assistenza, Peter Bescapè alla parte tecnica, radio24.it il nostro sito dal quale potrete riascoltare, riscaricare la puntata in podcast, oppure facebook.com/l'altra Europa. O @ Federico Taddia su Twitter per seguirci anche durante la nostra settimana. L'appuntamento, come sempre, a sabato prossimo. Ancora ciao, ancora grazie da Federico Taddia.